La prossima è un pezzo, no, che abbiamo riproposto nel nostro demo, è Canzone per Berlino, un vecchio brano di Abason. Posso chiamarti amore, anche se sulla porta ti ho lasciata bestemmiare il mio nome inciso sopra una targhetta, mentre davanti a me ogni anno che mi aspetta. Ed ora come posso chiamarti amore, mentre dentro al letto un altro è tuo calore, talmente piccola vederti in mezzo a questo fumo, talmente piccola ed inutile, ho già Berlino. Ragazzi a terra sotto il Panzer Pau davanti ai carri russi, questo è l'etamaio. Ragazzi per le strade una bandiera, ragazzi questi giorni di primavera, e la nostra roba è stata violentata, ma nessuno potrà dire che si è piegata. Vieni un'altra volta e canta ancora un'ultima canzone per Berlino, per Berlino. Amore, oppure posso spararti sulla bocca, ora che il tuo ritratto l'ho lasciato a un camerata perché morisse divertito. Ed ora che io sto vincendo, mentre tutto è un grido e la città intera brucia, mentre il mio ventre aperto sembra urlare al sole, amore, amore, amo soltanto il mio onore. Ragazzi a terra sotto il Panzer Pau davanti ai carri russi, questo è l'etamaio. Ragazzi per le strade una bandiera, ragazzi in questi giorni di primavera, e la nostra roba è stata violentata, ma nessuno potrà dire che si è piegata. Vieni un'altra volta e canta ancora un'ultima canzone per Berlino, per Berlino. Ragazzi per le strade una bandiera, ragazzi in questi giorni di primavera.